9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto. Non potevamo che cominciare con Berlusconi che si ritira, anzi si ma di che cosa parliamo? Si è ritirato, quante volte fanno le primarie, ci credono davvero? Vediamo con che regole, chi le stabilisce? Un'assemblea di non eletti, con quali criteri? Le convocate, le alte, le basse, le bionde, i bruni, quelle con le mani pulite? No, quelli non possono. Si è ritirato? Io? No, tu no. Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, ha detto la segretaria di Bersani, anche lei con le mani nel nostro borsellino, in altre parole, la pagavano i contribuenti di una regione per fare una roba per il partito. E poi il suo capo della segreteria dice che torna a insegnare, il professor Penati, a insegnare. Ed Errani che dava i soldi al fratello, poi dice sono tutti uguali. No, non sono tutti uguali, semplicemente però contraggono molti di loro un virus, quello di prendere le nostre tasche come se fossero infinite. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io. Allora, a proposito di funerali, oggi giovedì 25 ottobre, auguri a chi si chiama Crispino Crispiano. Fatemi cominciare con due cose che sono le dimostrazioni di come poi andiamo avanti in questo nostro paese, mentre i giornali vengono tutti occupati, pagine intere oggi alle primarie, finalmente, del PDL, le reazioni dei tre protagonisti delle primarie del PD, d'accordo, Berlusconi era caduto un anno fa, forse quelli del suo partito già prima dovevano muoversi, adesso vedremo. A me interessa invece quello che nel frattempo, nella disattenzione, succede, che colpisce poi le tasche degli italiani. Allora, inizio da due misure, perché oggi faremo una nuova carrellata di quello che succede, daremo nuovamente voce a imprenditori colpiti da questa situazione e che propongono invano, inascoltati, delle misure necessarie. Però cominciamo con due novità della giornata di ieri. Allora, la prima è che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità, appunto, costituzionale per eccesso di delega della mediazione. Quindi questo, che era un pilastro della riforma della giustizia partita ormai un anno e mezzo fa, vi ricordo che l'idea della mediazione è quella di essere volta a ridurre il contenzioso civile che intasa ogni anno le aule dei tribunali. Nel frattempo però, da più di un anno, erano nati circa 950 organismi di mediazione con 40.000 mediatori che hanno investito in questo strumento, cioè hanno creduto nel fatto che la parola del signor Stato valesse qualcosa, e naturalmente hanno sbagliato, perché non vale nulla la parola dello Stato, non vale nulla. E quindi oggi che la Corte Costituzionale si inventa, cedendo a chi aveva protestato nel mondo forense italiano, si inventa l'incostituzionalità per eccesso di delega, Che cosa succede? Succede che si trovano questi 949, queste 949 imprese nate su una normazione dello Stato con indipendenti a propria volta che hanno creduto in questa norma, si trovano oggi dalla sera alla mattina buttati tutti per strada. Tutti per strada, non so se è chiaro, cioè ci sono 40.000 mediatori e di questi 949 organismi ciascuno di loro ha speso più di 100.000 euro come minimo per avviare l'attività, ma la Corte Costituzionale ovviamente ha detto che c'è un eccesso di delega. E che vogliamo fermarci di fronte al fatto che la parola della Corte vale di più della parola del Parlamento? È ovvio che sia così in un buon ordinamento, è ovvio naturalmente che i signori magistrati della Corte se ne siano bellamente fregati delle conseguenze della loro sentenza. Ha sbagliato chi ha creduto allo Stato, del resto, no? Lo Stato può sempre cambiare idea, è sempre libero di non misurare le conseguenze di quello che fa. Allora, questo come primo esempio di come si interviene in una situazione già bella che è pregiudicata e di fronte a una misura, quella della conciliazione, che poi aveva un fine di snellimento del rito. Ma niente, eccesso. La forma prevale sulla sostanza, che è il vero motto che andrebbe inciso nelle aule del settore pubblico italiano. Secondo esempio di quelli che mi fanno urlare, poiché la vicenda dei cosiddetti esodati, cioè coloro che hanno sottoscritto accordi nelle imprese di scivolo e di anticipo dell'età pensionabile per ristrutturazioni aziendali, non coperti quindi dagli effetti della riforma Fornero di innalzamento dei tetti dell'età pensionabili, non si riesce a trovare la formula attraverso cui dare copertura, e ancora siamo lontani dalla piena cognizione del loro numero. Abbiamo dedicato più volte approfondimenti a questo tema. Ieri ecco che il Parlamento ha approvato un emendamento per il quale si dispone la copertura finalmente integrale al problema degli esodati nei prossimi anni, perché si è stabilito un prelievo del 3%, stiamo parlando oramai di aliquote di volta in volta massicce che si sovrappongono a una pretesa fiscale depredatoria, un alto prelievo del 3% sulla quota del reddito superiore ai 150.000 euro. Voi direte 150.000 euro, stiamo parlando dei famosi ricchi, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che volete voi, lo 0,36% degli italiani, e fino all'anno scorso ce l'ho anch'io, da quest'anno non credo per come mi stanno andando le cose, quindi dichiaro anche il mio conflitto di interesse, lo faccio per onestà, che naturalmente dovranno assoggettarsi a fino a 3 miliardi di contributi aggiuntivi, capite? Allora, io non so quanti di voi credano che misure come queste, figlie dell'improvvisazione, della demagogia, siano giuste. Io accomuno apposta la sentenza della Corte di ieri che abolisce la conciliazione e la tassazione aggiuntiva di ieri per gli esodati come i segni di un paese che ha perso l'intelligenza minima per intervenire su norme come queste. Ha voglia a dire il signor capo dello Stato che il governo Monti è imprescindibile, gli italiani tengano conto, anche se Monti non si presenta, terremo conto di questo ectoplasma non presente sulla scheda. Comunque vedremo come l'offerta politica dal basso, in cui ahimè ci ho messo la faccia pure io, sarà possibile portarla avanti, perché vi dirò che io sono molto molto sfiduciato in questo. Ma detto questo, finché questi sono i provvedimenti che ci vengono proposti nella disattenzione generale, perché più dell'attenzione va invece alla polvere della politica, io credo che non si veda una grande luce. Allora iniziamo a dare voce, come facciamo da molti mesi, a pezzi di impresa che tentano di attirare la vostra attenzione, l'attenzione di tutti, l'attenzione della politica sulla situazione concreta, che continua a essere negativa, altro che luce accesa nel 2012. E cominciamo con Luca Peotta, che è con noi, che è il fondatore, animatore da molto tempo ormai, purtroppo mi piacerebbe che fosse finita la ragione per cui è nata l'iniziativa, di Imprese che Resistono, che è il movimento di cui è stato fondatore, e invece purtroppo le cose vanno di male in peggio. Ieri hanno animato Imprese che Resistono un corteo a Torino che ha messo insieme le rappresentanze che imprese che resistono hanno in Piemonte, in Lombardia, in Liguria, in Emilia Romagna, nel Molise, nel Lazio, nel Veneto, ed è oramai a 3 anni dalla nascita di questo movimento. Allora, buongiorno Luca Peotta. Buongiorno a lei Oscar e buongiorno a tutti i radioascoltatori, scusate un po' la voce, però l'ho persa ieri un po' nel farci sentire questa testimonianza che rappresenta la manifestazione. Finché quella è una voce ben spesa, Peotta. Senta, allora, a 3 anni dalla prima volta che siete scesi in piazza, ieri a Torino, cosa avete chiesto e come stanno i vostri iscritti? Ma rispetto alla prima manifestazione che era stata nel 2009, nel giugno del 2009, che avevamo fatto questa manifestazione silenziosa proprio perché insomma l'educazione in punta di piedi, insomma, per arrivare a ieri, invece abbiamo dato sfogo un pochettino alla nostra rabbia. Abbiamo praticamente camminato per le vie di Torino, anche perché no, creando un disagio che comunque diversamente da altre manifestazioni è stato accolto bene, perché la gente per strada si è fermata a vedere chi eravamo, che cosa chiedevamo, e all'urlo di basta, della parola basta, tutte le volte che la chiedevo, perché dicevamo questa parola basta, perché abbiamo una pressione fiscale, come ben sa e come ben sanno i radioascoltatori di Radio 24 che seguono queste tematiche, una pressione fiscale eccessiva, e non soltanto a livello aziendale ma anche sulle buste paga, quindi noi diciamo se tutto questo non viene ridotto ci chiediamo come fa a ripartire la domanda interna, come fanno a partire i consumi interni di questo paese che sono l'ABC di un'economia di un paese, e quindi anche dire basta a una burocrazia che ha raggiunto livelli veramente troppo alti, che ci limitano a fare impresa e che è figlia primogenita della burocrazia, quindi che è figlia primogenita della corruzione, quindi voglio dire i soldi per la corruzione ci sono, i soldi per invece dare forza alle imprese, sostenere il paese economico, il tessuto produttivo, la colonna portante dell'economia italiana che sono le piccole e medie imprese, no, non ci sono i fondi, ci sentiamo dire che non ci sono i soldi, che la coperta è corta, eccetera eccetera. Quindi a noi ci sembrano veramente dei paradossi incredibili che francamente ci lasciano quasi pensare che questo Stato non stia proteggendo l'economia, non la voglia proprio proteggere per nessun motivo, e quindi le aziende vanno all'estero, eccetera eccetera, e quindi si spolpa il tessuto economico di questo nostro paese. Senta, tra i vostri iscritti aderenti c'è gente che viene da CNA, c'è gente che viene dall'API, piccola impresa, se lo stato d'animo diffuso nei confronti del governo Monti, in carica da un anno a questa parte, per quello che riguarda l'economia reale e l'impresa, naturalmente con tutte le eccezioni, le chiedo un giudizio così che come tutte le approssimazioni generaliste non può comprendere tutti, ma il sentimento più diffuso nei confronti del governo Monti sull'impresa dei suoi iscritti qual è? Questo continua a aumentare la pressione fiscale, ad esempio l'IMU, il sentimento è quello che appunto ho detto anche un pochettino prima, e se ieri sono scese anche le associazioni di categoria in piazza con noi per la prima volta, evidentemente c'è qualcosa che pesa troppo, quindi noi ci aspettavamo dopo il governo Berlusconi, questo governo Monti, che avesse capito soprattutto di che cosa, di quali erano le vere esigenze della piccola e media impresa, e invece stiamo andando in una direzione secondo noi sbagliata, e il problema più grosso è che non veniamo ascoltati, quindi questo ci rende veramente terribilmente confusi, quindi non vediamo crescita, non possiamo assumere perché non c'è nulla di concreto, ma è preferibile occupare una persona per 15 giorni e quindi dare uno stipendio per 15 giorni o dire no, il futuro anche a tempi brevi è così latente, non sappiamo assolutamente che cosa succeda, quindi preferisco non assumere la persona, cioè noi viviamo così e un imprenditore che vive in questo modo non è più un imprenditore e più il tempo passa più perde il vizio di fare l'imprenditore. Questo fatto di doversi occupare di ciò che non è il core, la ragione fondativa, la ragione istitutiva dell'impresa di ciascuno, ma di dover passare il tempo a combattere, a mediare, a fare arbitraggi nella misura del possibile, fino a scoprire che poi non è più possibile con le mille pieghe delle pretese fiscali, contributive dello Stato, con le banche che ti chiedono il rientro e così via, è una delle ragioni di fondo della discontinuità di impresa, perché è concomitante rispetto al fatto che poi non c'è più copertura patrimoniale, che viene meno circolante e così via, perché l'imprenditore è sottratto al suo compito fondamentale. Io lo sapevo che con l'appello alla conciliazione, con il riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale che ha abolito la conciliazione, avrei scatenato la vostra reazione, e tra tutte, prima di fare un'altra domanda e a presentare un altro ospite che si è aggiunto, voglio leggere la lettera che ci ha mandato Salvatore Zambrino, che ci scrive così: caro Stato italiano, adesso glielo dici tu a Rossella che ha perso il lavoro? Sì, caro Stato italiano, continuo a scriverlo in maiuscolo per l'innato rispetto delle istituzioni che ho, ma sarebbe da scrivere oramai in sotto minuscolo, corsivo e segnato con matita blu. Comunque, caro Stato, adesso il mio compito ingrato sarà quello di chiamare Rossella e dirle che ha perso il lavoro, perché tu, nella tua munificenza, le offrirai un sussidio per qualche mese e poi saranno affari suoi su come andare avanti. Pensa che dopo l'assunzione, questa stupida idiota di Rossella, che pensava di aver trovato un lavoro stabile in un settore in sviluppo, ha deciso anche di sposarsi. E la spudorata ha anche pensato all'ipotesi di accendere un mutuo e comprarsi una casa. Ora, grazie alla previdenza del nostro sistema, io, non te, caro Stato italiano, devo invece dirle che il suo lavoro termina oggi, ma non andrà oltre i tempi di un giusto preavviso. Al massimo, come da contratto. Chi ha letto fin qui avrà pensato di assistere alla solita scena dell'imprenditore che piange, incapace di avere giustificazioni per licenziare un dipendente. Ma non è così, perché oggi, 24 ottobre, la Corte Costituzionale ha deciso che la mia azienda deve chiudere. Qualche tempo fa un altro pezzo dello Stato italiano, il Ministro della Giustizia, mi aveva concesso di aprirla e di sognare di svolgere un'attività meritoria e appagante, nonché di aspirare a guadagnare qualcosina in un momento di recessione, entrando in un settore vergine della mediazione civile. Ma ieri appunto la Corte Costituzionale ha sancito che la mediazione civile non è più obbligatoria. Pertanto, da oggi, ADR Intesa, il mio organismo di mediazione e altri 947 colui che hanno creduto alla parola dello Stato, per la parola dello Stato chiuderanno bottega. Caro Stato italiano, ti prego, chiama Rossella, diglielo tu, perché io non ci riesco a mandarla a casa. Poi chiama anche Francesca, Alessandra, Maria, chiama tutte le dipendenti di noi 948 che hanno creduto a questa riforma dello Stato e digli che lo Stato ci ha ripensato, che da domani hanno tutte perso il lavoro. Allora, Piotta, resti un secondo con noi perché estendiamo la riflessione su un altro intervento che è avvenuto con il decreto liberalizzazioni, ma è entrato in vigore esattamente in questi giorni di ottobre ed è relativo, ne parlammo quando venne approvato il decreto liberalizzazioni, è relativo all'articolo 62 di quel decreto liberalizzazione ed era il tema dell'obbligo dei pagamenti nella catena che dai produttori agricoli e alimentari arriva alla grande distribuzione. Che cosa succede? Succede appunto che dal 24 ottobre è entrata in vigore la norma per cui chi acquista prodotti agricoli e alimentari deve pagare inderogabilmente a 30 giorni per i prodotti deteriorabili e a 60 giorni per gli altri prodotti, e a questo si aggiunge poi obblighi di formalizzazione contrattuale di ogni tipo di contatto di transazione tra cliente e fornitore, salvo che con il consumatore finale. Questa norma, ne parlammo, per chi si ricorda, invitammo il ministro che era un grande fautore di questa norma dicendo che serviva a tutelare i piccoli produttori verso la GDO. Invece questa norma, come puntualmente avevamo ma inutilmente avvisato, produce degli effetti abbastanza contrari e in moltissimi casi, le segnalazioni confermano quello che avevamo detto, devastanti. Allora, sentiamo a questo proposito Silvano Boroli. Silvano Boroli è imprenditore, il cui nome dovrebbe dirvi perché appartiene a una grande famiglia di editori italiani, che poi ha diversificato anche nel vino e quindi nella enogastronomia di alta qualità, e ha anche alle sue spalle esperienze politiche, perché fu molti anni fa, all'inizio di Forza Italia, fu senatore per un po' di tempo. Detto tutto questo, noi oggi Silvano Boroli lo abbiamo chiamato per farci dire che cosa succede con questa norma che entra in vigore. Quindi buongiorno e grazie Silvano. Buongiorno Oscar, come stai? Abbastanza. Allora, che sta succedendo per effetto di questa norma? Siete i tutelati, i piccoli produttori sono tutelati davvero? Guarda, secondo me questa norma avrà degli effetti devastanti. Pensando che la ratio di questa norma, come tu dicevi prima, dovrebbe essere la tutela dei piccoli e medi produttori rispetto alla GDO, succederà esattamente il contrario. Perché? Ma per un semplice motivo, perché a questo punto la GDO andrà a comprare all'estero tutti i prodotti alimentari, punto. La carne, invece di prendere il fassone del Piemonte o la fiorentina, andrà a comprare solo carni argentine, perché evidentemente potrà pagarle quando si metterà, come nei modi in cui si metterà d'accordo con il fornitore. E quindi questo sarà un primo effetto, secondo me, per cui carne, latte, vino, formaggi, eccetera, saranno comprati all'estero, il vino, la Spagna è così vicina, voglio dire. E un'altra questione, la questione verso la ristorazione. Allora, voi pensate che noi abbiamo anche un piccolo ristorante stellato, come tu dicevi, come tu ricordavi, e per comprare 24 uova dovremmo fare un contratto scritto, dovremmo scrivere tutto, egregio signor Pinco Pallino, desidero comprare 24 uova con questo pagamento, con queste caratteristiche del prodotto. Questo è un'altra cosa, cioè è una burocrazia veramente devastante. Il terzo riflesso che noi avremo sarà questo, che un ristorante, invece di parlando di vino, parlando di olio, parlando diciamo anche di prodotti non deperibili, invece di comprare 60 bottiglie di vino che gli potranno servire per 2, 3, 4 mesi, comprerà 6 bottiglie di vino. Alla fine le quantità saranno anche uguali, ma invece di comprarne 60 comprerà 10 volte 6 bottiglie di vino. Il che significa moltiplicare per 10 tutti gli effetti burocratici, cioè io dovrò fare 10 fatture invece di una fattura, 10 DDT invece di uno solo, e quindi veramente avremo degli effetti sia sotto il profilo burocratico sia sotto il profilo sostanziale che saranno veramente devastanti. Peotta, posso chiederle una cosa? Cosa pensa di uno Stato che i suoi debiti commerciali continua a non pagarli e a disconoscerli, che i crediti fiscali delle imprese non li mette in pagamento e che però a questo punto e in costanza di questo suo atteggiamento aggrava di volta in volta invece gli adempimenti per le imprese, quelli formali, quelli contabili, quelli amministrativi, prevede i tempi di pagamento addirittura più stretti, a 30 giorni, neanche a 60, quando lui non paga neanche a distanza di anni? Che impressione le fa uno Stato così asimmetrico? L'impressione che inchioderà il sistema e lo sta inchiodando, cioè se è lo Stato che dovrebbe dare l'esempio, beh qua insomma la cosa la dice lunga, no? Quindi io seguo un caso che è l'Inalpi di Moretta, dove provincia di Cuneo, dove devono acquisire 10 milioni di euro come recupero IVA, dove comprano il latte al 4% di IVA e lo devono e rivendono il prodotto lavorato al 10%. Fino ad oggi hanno recuperato 2.800.000 euro. Questa azienda ha una SPA che ha 150 dipendenti circa, ha un'esposizione con le banche riferita all'IVA che è incredibile. Quindi voglio dire, se non vengono risarciti i soldi, se non vengono elargiti i soldi che gli spettano, sicuramente per il momento non ci sono problemi perché insomma ci sono le spalle larghe, come si dice, però è un'azienda che ogni mese che passa ha questi 500.000 euro di IVA da recuperare, quindi l'anticipa ma non viene rimborsato, quindi qualche sforzo è stato fatto, per l'amor del cielo, ma andare avanti così sicuramente l'Inalpi, che è un'azienda che va bene, che si sta allargando, che sta investendo, in questo modo sarà messa in ginocchio dal fatto che lo Stato non è in grado di riconoscere, certo, i crediti di chi lavora nella propria catena con aliquote IVA diverse, per questo accumula crediti fiscali e lo Stato si volta dall'altra parte. Allora io ringrazio Luca Peotta invitandolo a continuare con i suoi di imprese che resistono nella sua azione, e ringrazio anche Silvano Broi per questa testimonianza. Altre ne raccoglieremo perché moltissime sono le lettere che arrivano su questo articolo 64 delle liberalizzazioni, quindi continuate a scriverci, noi vi chiameremo, vi faremo spiegare il vostro singolo caso per continuare a dire che dica il Quirinale di questa luce che sarebbe propalata dal governo in carica, che noi vediamo, continuiamo a vedere uno Stato che va nella sua direzione. Lui non paga, i suoi debiti non esistono, i suoi adempimenti sono come decide lui, cambia idea e provoca nuovi disoccupati, ma poi ai privati chiede l'esatto opposto. E in questa seconda parte della trasmissione ci occupiamo di uno studio, e uno studio comparato che è stato commissionato da Accenture. Accenture è una grande casa internazionale, un grande gruppo internazionale che si occupa di consulting pubblico e privato, e uno studio commissionato da Accenture appunto a Oxford Economics ha messo in fila per diversi paesi avanzati, per l'Italia come per la Germania, la Francia, gli Stati Uniti, il Regno Unito, una stima di quanta spesa pubblica aggiuntiva nei prossimi anni servirà per produrre servizi pubblici allo stato attuale della curva demografica di ciascun paese, perché ricordatelo, noi abbiamo un enorme problema, una grande spada di Damocle sulla nostra testa che abbatte il nostro output potenziale e il debito pubblico rispetto ai livelli di spesa e tasse a cui la politica ci ha portati, senza risolvere il problema del debito che, come sapete, continua a crescere anche col governo Monti. Ma il vero problema, la vera minaccia sistemica al riorientamento verso l'alto dell'output potenziale è la curva demografica, perché noi abbiamo, nel censimento 91 avevamo per 100 italiani sotto i 15 anni 97 italiani sopra i 65 anni, nel censimento 2011 per 100 sotto i 15 anni avevamo 144 italiani sopra i 65 anni, rispetto alle generazioni dei baby boomers, 900.000 nascite italiani l'anno c'erano, stentiamo a tenere la soglia dei 500.000, vi faccio un rapido conto, 500.000 che non riusciamo a tenere attualmente, con una quota di nascite per donna feconda di 1,4 perché serve 2,1 per l'equilibrio demografico, con i 500.000 che non riusciamo a tenere come quota annuale di nati, con 80 anni di vita media sono 40 milioni, per capirci, rispetto ai 60 milioni di italiani di oggi. Quindi capite bene che c'è un problema serio, perché questo problema serio è quello di minor numero di attivi, già avendo noi giovani e donne che partecipano pochissimo al mercato del lavoro, minori consumi perché con gli anziani i consumi si abbassano, ma consumi pubblici enormemente più elevati, quelli previdenziali, sanitari, come si assistono i malati, gli anziani, i cronici, eccetera eccetera eccetera. Allora, per ciascun paese, alla luce della sua curva demografica, in questa ricerca è stato commissionato uno studio per vedere quanta spesa pubblica arriverà in più, e poi è stato affiancato anche un sondaggio realizzato sempre per Accenture in cui è stato chiesto come sono soddisfatti poi le diverse popolazioni per i servizi che ricevono. Allora, sui risultati che riguardano l'Italia, che secondo me consentono una buona riflessione, abbiamo chiamato con noi per parlarne Gianmario Pisano di Accenture, appunto. Buongiorno Pisano. Buongiorno dottor Giannino, buongiorno. Allora, dall'incrocio di queste ricerche, i dati che riguardano l'Italia, che dati sono? Quanto sono preoccupanti e che cosa ci dicono? Riprendendo i due, diciamo, le due gambe dell'analisi che è stata effettuata, quella finanziaria ci dice che rispetto a una traiettoria sostenibile di spesa pubblica l'Italia avrà bisogno tra poco più di una decina d'anni di circa 23 miliardi di risorse aggiuntive, cioè aggiuntive significa, come lei ha spiegato benissimo, da trovare. L'analisi invece condotta da Ipsos Mori sulla soddisfazione dei cittadini in questi 10 paesi, tra cui l'Italia, ha evidenziato che i livelli di soddisfazione in Italia sono bassi rispetto al campione. Adesso il dato sintetico è che solo il 15% dei cittadini si dice totalmente o parzialmente soddisfatto dai servizi pubblici che riceve, contro una media del 35% del campione. E questo comunque semplicemente, diciamo, riflette quello che già le comparazioni internazionali più autorevoli ci dicono sui tempi della giustizia civile, per riprendere un argomento che lei ha già trattato oggi, sui risultati dell'istruzione obbligatoria, sui costi della durata delle pratiche amministrative, che ci vedono fanalino di coda. Quindi se lei mette insieme queste due gambe dell'analisi, viene fuori un differenziale economico importante. È un differenziale di qualità che lo aggrava sensibilmente. Ora, chiaramente, cosa fare di fronte al differenziale economico? Beh, le risposte semplici sono: alzo le tasse, ma dubito che ci saranno le condizioni di equilibrio finanziario dello Stato per farlo, oppure taglio ulteriormente i servizi, aggravando la soddisfazione, il vuoto di soddisfazione dei cittadini. Quello che diciamo noi e quello che noi vediamo un po' in giro per il mondo fare dalle pubbliche amministrazioni più avanzate, più preoccupate, più attive, diciamo più reattive, è lavorare sui modelli di produzione dei servizi pubblici per cercare una maggiore produttività e o una maggiore efficienza. Anche perché la vostra proposta, cioè la colonna che più secondo me è stata interessante di questo vostro elaborato, noi stiamo parlando, Gianmaro Pisano, ho dimenticato di dirlo, è responsabile di Health and Public Service di Accenture Italia, cioè la sua specifica responsabilità è esattamente quella nella salute e servizi pubblici, e avete per ognuno di questi paesi fatto un calcolo di come si può finanziare l'aggravio di spesa che è previsto per via della curva demografica attraverso l'efficientamento annuale della pubblica amministrazione, cioè non con alzare le tasse, come diceva prima. Tra l'altro, una cosa che devo dire ai nostri ascoltatori è che in realtà per effetto anche degli interventi che ci sono stati nel nostro paese dentro la finanza pubblica, noi siamo incredibilmente ma meno squilibrati per effetto dell'aggravio della differenza di spesa prevista per l'effetto della curva demografica di qui al 2025 di tanti altri paesi avanzati. Cioè, mentre per esempio il conto per l'Italia è di 23 miliardi, cioè un punto e mezzo di PIL per intenderci, per la Germania sono 60 miliardi, non bisogna fare il conto ovviamente in termini comparati quantitativi, bisogna farlo sul PIL tedesco, ma sono comunque due punti di PIL tedesco. Per gli Stati Uniti, che hanno dei fondamentali disastrosi di finanza pubblica, disastrosi, e vedremo tra poco col fiscal cliff dopo le elezioni cosa riesce a fare il Parlamento, chiunque sia eletto, per gli Stati Uniti l'aggravio di spesa da curva demografica al 2025 è del 4,4% di punti di PIL, cioè ha una dimensione più che doppia di quella tedesca, che è quasi doppia di quella italiana. Però, e questo cosa vuol dire? Vuol dire che in Italia questo tipo di aggravio potrebbe essere superabile se l'efficientamento annuale non fosse poi così molto elevato, perché voi lo calcolate, se non sbaglio, lo 0,25% anno, non sbaglio? Sì, un quarto di punto, circa, che, insomma, un quarto di punto. Dovrebbe essere quello che fa un'impresa che sta a Florida, non un'impresa disastrata come quella pubblica italiana, o no? Un quarto di punto è comunque un recupero importante e implica una serie di azioni. Noi diamo alcune direttrici strategiche. Chiaramente rivedere una macchina così complessa è un'operazione articolata, però i principi di base secondo me possono essere definiti con chiarezza. Intanto bisogna rivedere e cambiare il rapporto capitale-lavoro nella pubblica amministrazione. Ma le dico, le immagini che lo Stato della California spende per ogni cittadino 6 volte più dell'Italia in informatica e 2 volte di meno in stipendi. E i tassi di soddisfazione dei cittadini sono molto più alti. Il modo in cui i servizi sono disegnati ed erogati è differente. Quindi c'è un problema di mix capitale-lavoro rispetto al settore privato, ma anche rispetto ad altre pubbliche amministrazioni. In secondo luogo, secondo me abbiamo un problema di perimetri. Cioè il monopolio della pubblica amministrazione nella produzione del servizio pubblico va in qualche modo reinterpretato. Io penso che il perimetro vada rivisto facendo leva su forme di produzione del servizio che abbiano una natura imprenditoriale più spiccata, quindi che abbiano maggiore attenzione al risultato e alle risorse. Nel futuro già si vede altrove la pubblica amministrazione che assume un ruolo di coordinamento di una rete di imprese sociali, di cooperative, di privati che producono il servizio pubblico. Ma non certo col criterio diverso dell'offerta fatta dai dipendenti pubblici. Certo. Sottoscrivo, e la perifrasi dell'impresa di consulting è gentile, io direi che va durissimamente rivista questa idea, perché altrimenti se non si affonda il coltello nel perimetro non ce la si fa, perché dobbiamo recuperare molti punti di spesa corrente in retrocessione a meno imposte per chi lavora e per l'impresa. Eccoci qua, torniamo in studio rapidamente per un po' di telefonate. Iniziamo da qualche secondo per Jim Morrison, però prestiamogli il dovuto rispetto. Apple continua a dirmi poi che lo devo levare. Quanto non capisco la psicologia di chi pretende l'illusione al posto della realtà. Del resto però può essere che sbagli io, assolutamente. La vita dice che ho sbagliato io, avete ragione voi. Aurelio da Trapani, sentiamo Aurelio da Trapani che ci dice. Aurelio? Allora, io sono un area manager e quindi sono infilato testa e coda dentro all'attività di commercio. Sì. E ieri è entrato in funzione l'articolo 62 decreto legge numero 27. Sì. E c'è un silenzio totale su un'operazione che può diventare devastante, perché in poche parole tutto il mercato si ferma perché il nuovo regolamento dei pagamenti e la contrattazione con la sottoscrizione degli ordini ha dei vincoli incredibili, giustamente per combattere la concorrenza sleale che c'è in Europa, però siamo in balia delle notizie di quello che deve accadere, come deve accadere, perché non c'è nessun indirizzo preciso per potersi comportare in maniera concreta e poter essere operativi senza avere difficoltà, diciamo, di realizzazione della contrattazione. Aurelio, noi abbiamo sperato mesi fa, quando la norma fu approvata, che nei decreti attuativi con le categorie lo Stato capisse, invece non è avvenuto, purtroppo. Sentiamo Salvatore, invece ci chiama da Salerno. Prego Salvatore. Sì, buongiorno signor Giannino, io le volevo dire che sono veramente amareggiato nel sentire stamattina la sua lamentela sul fatto che mille aziende che fanno la conciliazione adesso avrebbero perso un'occasione di lavoro, avrebbero perso soldi investiti e tutto. Perché non dice anche che la conciliazione in Europa c'è ed è stata dovuta questa conciliazione a una direttiva europea che ci obbligava ad avere la conciliazione, ma non ad essere a pagamento obbligatoria come lei giustamente pretenderebbe, che per salvaguardare le aziende. Perché le aziende, queste ditte, non fanno la conciliazione? E se sono brave vuol dire che il cittadino si rivolge. È stato l'ennesimo business che il governo Berlusconi ha regalato a queste aziende per fare di nuovo praticamente la cresta sui cittadini. Perché io mi devo rivolgere obbligatoriamente a questi enti? Che facciano il loro lavoro, che lo facciano bene, e se il cittadino ha il piacere di pagare soldi andando da un terzo a dare soldi a un terzo per mettersi d'accordo con un altro con cui è in causa, va ben venga, altrimenti ci deve essere l'opzione per questa cosa, non può essere obbligatoria e per essere di nuovo Salvatore, lei ha esposto la sua tesi, mi faccia esporre, visto che mi ha dato del servo di Berlusconi ed è la centomilionesima testimonianza. Non tagliatemi, fatemi finire oggi. No, non mi tagli sul secondo su questo. Allora, non sono servo di Berlusconi, io ho criticato lo Stato che prima dice che è obbligatoria e fa mettere in piedi un migliaio di imprese con i dipendenti e poi cambia idea quando le imprese ci sono. State attenti a quello che dico. Chi mi dice che sono un servo di Berlusconi mi presento sotto casa.